20:05 minuti, 17 secondi, si parte con il terzo appuntamento di questa settimana, mercoledì 16 luglio, siete su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli, ma non da solo e tra breve scoprirete con chi, l'appuntamento di Linea Rock ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21:30. Come ben sapete il mercoledì è stato mantenuto, tranne ieri abbiamo avuto Claudia con diversi suoi spostamenti di questa fase, ci sarà lunedì prossimo Max De Riu perché anche lui il mercoledì non potrà, ma il buon Maurizio Faulisi è qua presente questa sera con un carico di tanta musica che ci porterà dal rockabilly al country rock e tante altre cose che sarà naturalmente lui a descrivercele cammin facendo con il nostro spazio di questa sera. Do l'opportunità, e tra poco gli do la voce, a tutti coloro che vogliono inviare, salutare Maurizio e dialogare con noi, l'opportunità di scrivere una mail a diretta@radiolombardia.it, un semplice sms al 339-266-3825, il saluto da parte mia e tra poco anche da parte di Maurizio alla Rock Family, quindi gli amici che ci stanno seguendo tramite il sito in streaming dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Liguria. A voi, Mr. Maurizio Faulisi. We're gonna have fun. Oh, grazie, Gravelli. Garavelli! Ecco, una cosa da dire è che noi ci conosciamo da 18 anni, è la prima volta che siamo uno di fronte all'altro nel vetro a condurre un programma insieme. Beh, erano motivi di orari, eccetera, eccetera. Sì, ma forse non ce la siamo neanche cercata, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Bene, senti, posso? Vado tu l'ospite di questa sera. Siamo sicuri che poi non ci sbattano fuori? Aspetta. Allontanati un attimo dal microfono, io abbasso un attimo il game. Ricordo intanto che ti prepari che tutta la scaletta di questa sera è made by Maurizio Faulisi, quindi tutte le canzoni sono state scelte e ci sarà una sequenza ad hoc e quindi puoi andare. Good rocking tonight! Ed eccolo qua, lo aspettavano in tanti per coloro che ti hanno seguuito con uno dei tuoi appuntamenti su Rock FM che si chiamava proprio Good Rock. Proprio così, proprio così. Tra l'altro non era la prima trasmissione con la quale si andava in onda a Rock FM, è una trasmissione, quella di Rock and Roll anni 50, che vai a capire per quale motivo non ho lanciato prima, perché questa è la trasmissione, intendo dire quella dedicata al Rock and Roll anni 50, la prima con la quale sono andato in onda molti troppi anni fa. In effetti la tua carriera è partita a un po' di radio, quante anni fa? Era tutta di Milano? Sì, una nazionale. E comunque erano proprio tante, insomma, Italia Radio, Radio Popolare, Radio Super Milano, al Radio Locali e dal 93 Rock FM. E adesso con grande piacere ho varcato anche i confini di Radio Lombardia, almeno come ospite. Ma devo dire che questi studi sono spettacolari. Eravamo abituati a ben altro. Noi avevamo alien che correva per i corridoi, i cavi che scendevano. Hanno messo a posto tutto quanto perché arrivavi tu, erano già così. Allora cerca di tenere bene le cose. Facciamoci riconoscere. No, tranquillo, da quel punto di vista siamo tranquilli. Senti, allora, mi pare che tu abbia iniziato questa collaborazione a Radio Lombardia con una canzone alla quale tu eri molto affezionato, certo. Noi della Family, noi collaboratori di Rock FM e i tanti ascoltatori che subito sono arrivati qui a seguirti su Linea Rock, è vero? Posso fare qualcosa di simile? Esatto, perché tu conducevi questa striscia serale dalle 23 alle 24 con vari appuntamenti e l'ultimo è capitato il giorno prima, esattamente, due giorni prima. Good Rocking Tonight. E tu avevi chiuso con che cosa? No, io ho chiuso le trasmissioni di Rock FM, la mia ultima canzone, esattamente quella con la quale voglio partire questa trasmissione questa sera, ed è una canzone che tutti quelli che ci stanno seguendo dalla Rock Family sanno bene con cosa si può cominciare una trasmissione come questa, è Buddy Holly, Take Your Time. Take your time, I can wait, for all the love I know will be mine if you take your time. Take your time, though it's late, heartstrings will sing like a string of twine if you take your time. Take your time and take mine too, I have time to spend. Take your time, go with me through, time's still all I'm in. Take time. I can't wait for all the love I know will be mine if you take your time. Time and take mine too. I have time to spend. Take your time, go with me through. Time's still all time's in. Take your time. I can't wait for all the love I know will be mine if you take your time. Ho appena chiesto a Maurizio in che anno venne pubblicato questo pezzo. È bello perché è l'anno in cui sono nato io, 1958. Sì, proprio così, era il 1958, un anno prima che il buon Baddioli scomparisse. E i brividi in automatico escono. Qualunque canzone di Baddioli si ascolti, particolarmente questa, perché ci siamo, dico, mi permetto di usare il plurale, ma in tanti siamo affezionati a questa canzone, anche a giudicare dai messaggi che stanno arrivando. Sì, Take Your Time era il 1958, Baddioli è stato davvero un'icona della musica rock and roll e ha lasciato un segno impresso nella memoria che ancora oggi continua a essere indelebile, particolarmente in Inghilterra, dove in tanti lo hanno preso come spunto a partire dai Beatles e tantissimi altri. Ecco, sì. Forse questa sera, se non sbaglio, il brano, l'artista che hai proposto è l'unico originale che andiamo a porre. Esatto. Ecco. Sì, bravo. Ora c'è una storia. Esatto. È una trasmissione, quella di stasera, di rock and roll anni 50 riproposto da artisti attuali. Si tratta, naturalmente, stiamo parlando di cover, da artisti dai quali ci si può attendere tranquillamente cover di rock and roll, e ci sono artisti che forse meno scontati, che possono in qualche maniera sorprendere, non gli artisti che stanno per cominciare a suonare in questo momento, e si va dritti dritti verso il delta del Mississippi, almeno queste sono le immagini che ci trasmette questa slide suonata da Marty Stewart, che è un artista country. Ecco, quindi andiamo un po' a precisare, non è da solo, se non sbaglio. No, è con Steve Earle, altro artista country, ma mentre Marty Stewart è legato ai suoni forse diciamo più tradizionali. Nashvilleiani, bluegrass di questo tipo, invece Steve Earle tende più al rock, è decisamente da inserire in quel filone che è denominato alternative country. Il pezzo però in questione è giusto per dare continuità a quello che è stato il kick off di questa sera, è un pezzo intitolato Crying, Waiting, Hoping, e anche questo esce dal repertorio di Buddy Holly. Sempre di Buddy Holly, quindi sì. Allora andiamo ad ascoltare questa accoppiata che, come hai detto tu, ci porta molto nel sapore del blues, e del resto il blues è stato poi il rock and roll, diciamo, ha preso tutto dal blues, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che tu stesso hai detto che molti artisti, magari da questo punto di vista, si ritrovano un po', non dico spaesati, però a proporre pezzi di rock and roll, ci stanno perfettamente, perché il rock and roll è la loro storia. È assolutamente sì, è proprio così. Crying, Waiting, Hoping, Marty Stewart, Steve Earle. Waiting, hoping you come back. I just can't seem to get you off my mind. I'm waiting, hoping you come back. You're the one I love, and I think about you all the time. Right here. It feels so useless, I know it's wrong to be crying, waiting, hoping you come back. Maybe someday soon things will change, you'll be mine. crying, waiting, hoping you come back. Maybe someday soon things will change. Will you be mine? I'll change. You'll be mine. Change. You'll be right. Crying, waiting, hoping. Hoping. Sono le tre parole che compongono il titolo di questa composizione di Buddy Holly, interpretata da Marty Stewart e da Steve Earle. Steve Earle, gran bel rock and roll, l'avete sentito? Sì, è una, anche questa è una canzone che ha goduto, insomma, ci sono state molte cover di Crying, Waiting, Hoping, e tra l'altro ha fatto anche questa canzone, ha fatto parte della colonna sonora del film La Bamba. C'erano i Los Lobos, Marco Criscio che l'aveva reinterpretato, esatto. I Los Lobos che la facevano da padrone in, quella, in quel film, in quella colonna sonora. Beh, del resto colonne sonore che si riallacciano agli anni 50, perché qui siamo, abbiamo detto, anni 50, come esecuzione ce ne sono state. In primis American Graffiti, anche se questa sera non a abbiamo... A celebrare gli anni 50 una gran filmografia, decisamente. Decisamente molto ampia. Il prossimo personaggio però, anche lui, trae radice dal blues, anzi è uno dei più grandi bluesman bianchi, è bello aggressivo di solito, con il suo gruppo chiamato Destroyers. Sì, va a interpretare una canzone di Bo Diddley, ed è il secondo personaggio che vogliamo celebrare questa sera, perché è scomparso da poco, il 2 di giugno all'età di 79 anni, quasi 80 anni. Il grande Bo Diddley ci ha lasciati, e lui arrivava dal Mississippi, e da qui l'aggancio con quella citazione della chitarra di poco fa di Marty Stewart. Grande personaggio, caratteristico, sicuramente uno dei più originali degli anni 50, uno di quelli che anche lui ha lasciato più il segno. Ma poi vai a parlare di artisti come Carl Perkins, Buddy Holly, Elvis Presley, Chuck Berry, chi non ha lasciato il segno tra questi? È difficile, Maurizio. Ma l'originalità di Bo Diddley anche nell'essere riuscito a creare un sound, lo hanno denominato Jungle Sound, che era suo, inequivocabilmente suo, e ha fatto delle canzoni, ha scritto delle canzoni che davvero sono rimaste nella storia del rock, tant'è che anche in tempi più attuali una canzone come quella che andiamo a presentare è stata ascoltata grazie a un milione di altri artisti. Who Do You Love l'hanno eseguita i Doors, i Quicksilver Messengers, la band l'ha eseguita anche George Thorogood con i suoi Destroyers. I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra stick for a necktie. A brand new house all over Roadside, and it's a made out of rattlesnake hide. Got a brand new tin that made a bit on top, and it's a made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love. Now I'll lie on the ground and use a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Who do you love? I got a tombstone and a graveyard line. I'm just gonna do what I don't mind dying. Who do you love? Yeah, who do you love? By my hand, she said, "Lonesome George, you don't understand. Who do you love?" The night was dark and the sky was blue. Down the aisle where I swag and blue. Hit off off and somebody scream. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Yeah, who do you love? Thank you. Just for the few, baby, I don't mind dying. Snakeskin shoes, baby, put them on your feet. Got the good time music with the boat really beat. Yeah, who do you love? Who do you love? I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. Brand new house out on the roadside. It's a bed out of rattlesnake hide. Got a brand new skin, I'm on a bit on top. And it's a bed out of human skull. Come on, take a little walk with the child. Tell me, who do you love? Yeah, who do you love? Who do you Riffoni di chitarra interpretati da George Thorogood e dai suoi Destroyers, una vera forza della natura sul palco dal vivo, questo personaggio che spesso è anche venuto a suonare, a proporsi qua da noi in Italia, perlomeno un po' di anni un bel fa, po' di, un bel anni po' di anni fa, sì, sì. Era spesso presente. Quindi il nostro viaggio musicale, iniziato appunto col personaggio di Buddy Holly, ci ha portato ora, abbiamo detto, sul Mississippi con queste atmosfere più blueseggianti. La prossima band, e questa magari la conosco anch'io, caro Maurizio, Aerosmith, uno dei miei amori degli anni 70. Anche loro all'inizio nei loro album piazzavano varie cover di artisti blues, Frank and the Rolling, eccetera, le hanno assaporate. Poi hanno preso una strada differente. Gli anni 90, dopo circa 20 anni di carriera, un artista si può permettere anche di sbragare un po' e andare nel commerciale, quindi tante ballatone, eccetera, eccetera. Però qualche anno fa si sono riguardati all'interno, hanno detto, però le nostre radici sono sempre state bluseggiate. Sì, ma gli artisti americani in effetti prima o poi ci ricascano. Ci ricascano nel giusto, è giusto che sia così, insomma, bisogna essere rispettosi verso il passato, bisogna conoscere il passato per poter capire bene il presente e soprattutto guardare verso il futuro. E loro hanno un passato dal punto di vista rock che insomma deve essere decisamente ricordato e riproposto, e succede quindi che le cover o comunque le celebrazioni del passato siano ricorrenti nel rock, e quindi anche gli Aerosmith hanno voluto dedicare ai vecchi suoni delle radici addirittura un disco completo, Honkin' esatto. on Bobo, è un disco che celebra il suono, principalmente il suono nero, il suono blues della tradizione americana, e guarda caso questo disco si apre con una canzone di Bo Diddley che proprio perché è scomparso recentemente, dobbiamo ricordare esatto. Doverosamente questa l'abbiamo sera. Fatto prima con George Thorogood, esatto. Lo facciamo ora. Questo, tra parentesi, è anche il pezzo che apre questo album, sì, degli Aerosmith. È una lunga corsa, molto molto bella, del resto è la corsa Roadrunner, Aerosmith in linea rocca. Ladies and gentlemen, step right up. Let's go to the Aerosmith. When I'm a road Yeah! ain't no circus and I don't need a clown. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. So there ain't no need in your hanging around just to make a hit with that chick. I tried to get a Cadillac right quick. The man at the place looked so strange. I had $900 and some change. We disagreed. I tried to plead. I said, I ain't no chicken and I don't need your feed. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. And brother, you crawling way past your speed. Shout as he cut out. You ain't lost nothing. What you crying about? Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. And he took my watch and I passed out. I woke up in the arms of a big cop. Police station, next stop. The judge swung his fist down. Plunk, plunk. Cause you're drunk. Dig up the door and you can go. All I had was a buffalo. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. Your cash ain't nothing but trash. But I sure better get me. Vi avevo anticipato che avremmo trovato di tutto nel viaggio musicale della colonna sonora di questa sera, e in effetti così è, dal rock and roll puro, addirittura ora lo swing con il grande Huey Lewis and the News, e tra breve il mio ospite, cioè Maurizio Faulisi, ve ne parlerà. Ma voglio ringraziare gli amici e le amiche che hanno già inviato gli sms al 339-266-3825, sono tutti per te Maurizio, e sono in tanti, le mail a diretta@radiolombardia.it, tra cui una nostra ascoltatrice che ci sta seguendo da Toronto, alias Canada, un salutone. Quindi in streaming per forza, perché le antenne non arrivano fin là. Quindi il nostro viaggio musicale ci ha portato a Huey Lewis, che tutti conoscono per le sue interpretazioni pop naturalmente, ma come vedete anche lui è un grande musicista. Il Puma di Lambrate qui raggiungerebbe, toccherebbe il cielo. C'ero io quel giorno in cui Huey Lewis arrivò negli studi di Rock FM e quindi fece quel duetto in armonica insieme al buon Fabione Treves. Sì, Huey Lewis ha proposto questa Your Cash and Nothing But Trash, che è il perfetto mix di rock and roll, swing e rhythm and blues in un album, anche questo tutto quanto dedicato proprio agli anni 50, un album di cover, Four Chords and Several Years Ago. E Huey Lewis è un artista blues, quindi dagli artisti rock, gli Aerosmith, che si sono cimentati con un po' di blues, all'artista blues che esegue brani rock and roll anni 50. E questa canzone è stata scritta da Jesse Stone, che utilizzava anche uno pseudonimo, lo pseudonimo di Charles Colon, ed è una firma questa che importante. Si è andata, sì. Gli autori non sono tantissimi, gli autori che facevano esclusivamente quello come mestiere negli anni 50, ma alcuni come Lieberman Stoller, che citavi di fuori onda tu Marco, così come Connie G. Bryant, così come Doc Pomus, e questo Jesse Stone sono stati sicuramente tra i più importanti. Pensate che questo Jesse Stone ha scritto canzoni importantissime come Flip Flop and Flight, Shake and Run and Roll, Money Honey, Rock Around the Clock a quattro mani, che poi è un must. Appunto. Invece quindi, il prossimo artista ci porta in un altro mondo. Il prossimo artista dove siamo? Dove Albert siamo? Lee. Sì. Ce ne andiamo. L'artista inglese Albert Lee ha suonato tanto blues con artisti inglesi, con uno su tutti Eric Clapton, ricordo, anzi voglio che vi facciate ricordare quel meraviglioso live at Budokan registrato a Tokyo, dove la chitarra era affidata ad Albert Lee, componente della band di Slow Hand in quel periodo, e poi se n'è andato negli Stati Uniti a suonare country music con la regina della country music, Emmylou Harris. Albert Lee, se vi capita qualunque disco di Albert Lee, andate sul sicuro, perché esegue country music, esegue rock and roll, ed è tornato in Inghilterra da un po' di anni a questa parte, ha messo in piedi una formazione, gli Hogan's Heroes, con i quali incide delle cose, credetemi, al fulmicotone, come per esempio una bellissima versione di un classico dal repertorio di Fats Domino, Fats Antoine, Fats Domino da New Orleans, I'm Ready! Brano dopo brano il ritmo cresce in costante ascesa e non si può rimanere fermi. Il piedino l'ho visto, lo muovevate un po' tutti quanti. I'm ready, Albert Lee, questo è il buon sano rock and roll portato questa sera in linea rock su Radio Lombardia da Maurizio Faulisi. Era Fats Domino, era sua la versione originale. Fats Domino, quello che già nel 49 seguiva rock and roll, quando rock and roll ancora non avevano deciso di chiamarlo, dovevano passare altri 4-5 anni. Ma tu lo sai di sicuro, alla fin fine, sta parola rock and roll, chi l'ha coniata? Allora, c'è un po' una diatriba su questo? Ma è abbastanza chiara in realtà la storia, nel senso che il termine rock and roll è un nonsense e venne utilizzato già negli anni 30 nei titoli in alcuni titoli di canzoni e all'interno dei testi come a volte come sono come posso dire onomatopeico, certo. Semplicemente come senso di cullare o comunque qualche cosa che ha a che fare con la fisicità del significato. Ma però non era ancora abbinato al genere musicale, allora, quel filone. Lo abbinò tal Alan Freed, che è il nostro zio DJ. Che è stato il più importante DJ degli anni 50, che poi fece una brutta fine nello scandalo delle bustarelle perché prendeva soldini per mandare in onda i brani. Sì. Noi non l'abbiamo mai fatto, infatti, vabbè, è cosa che capita. Tra l'altro avete notato che ci sono artisti blues che eseguono rock and roll artisti rock and roll neri degli anni 50 e ci sono artisti country che vanno a prendere artisti bianchi degli anni 50, ma succede anche che ci siano artisti bianchi come quello che andiamo a prendere in esame adesso, che è Travis Tritt, che è così vicino alla sonorità nere, a certo southern rock di matrice proprio, lui è della Georgia, lui fa della country music diciamo nashvilleana, molto in alcuni tratti molto pop ma in altri decisamente rock, e quando decide di fare rock le sue venature black sono notevolissime, tant'è che è stato inserito nella colonna sonora del secondo film dedicato ai Blues Brothers, tant'è che ha deciso di eseguire una canzone che è Lodi Miss Clody, che ci fa rimanere a New Orleans perché è stata eseguita nel 1952 da Lloyd Price proprio lì a New Orleans Crescent City. Questo è Travis Tritt. Lodi, Lodi, Lodi Miss Clody, you sure look good to me. Don't excite me, baby, I know it can't be me. Well, I give all my money, but you still don't treat me right. You like to ball every morning, don't come all too late at night. All right. classico, ecco. Lori, Miss Clody, anche questa fatta rifatta da tanti artisti. Tra l'altro, lui, Lloyd Price, non è certamente da citare come uno dei grandi del rock and roll, ma ha inciso quelle due o tre canzoni che davvero davano quel tocco in più. Sì, sì. New Orleans, Lori, Miss Clody da Travis Street, dalla Georgia. Quindi si prosegue, è un artista country, dicevamo, e la strada quindi del rhythm and blues che abbiamo ascoltato, che adesso l'abbandoniamo almeno temporaneamente. Andiamo a un duo che tutti conoscono, probabilmente per altri generi canzoni più melodiche, più soft, però hanno anche dato un loro piccolo contributo. Il contributo particolarmente alle armonie, alle armonizzazioni degli Everly Brothers, perché... È loro che avevano nel cuore e a loro che si sono ispirati Simon & Garfunkel. Non solo loro, ma anche gli stessi Beatles hanno confessato di aver attinto e di essersi ispirati dal punto di vista delle armonizzazioni vocali a quel meraviglioso duo del Kentucky composto da Phil e Don Everly, mitiche canzoni degli anni 50, Wake Up Little Susie, Bird Dog e naturalmente Bye Bye Baby, nella versione live di Simon & Garfunkel. Stand up. Siamo andati in Scozia per prendere Rod the Rocker, questo era il suo soprannome, Rod Stewart, biondissimo, ha cambiato non so quante mogli, quanto noi cambiamo moto o automobili, lui cambia le mogli e via, quanti figli ha non si sa, quante ne sta mantenendo, sono affaracci suoi, i soldi li ha fatti. E questa era Twisting the Night Away, ancora rock and roll in linea rock questa sera, insieme al buon, sano rock and roll proposto da Maurizio Faurisi. Twisting ancora, the Night Away. Benvenuto Maurizio. Grazie, benvenuti a tutti voi, cari ascoltatori che siete su Linea Rock questa sera, particolarmente questa sera, un salto davvero a ritroso fino agli anni 50 col cuore, ma poi avete sentito che sono canzoni diciamo registrate in tempi più moderni. Beh, qui in realtà siamo ormai nel lontano 1972, sì. Un amore dichiarato, quello di Rod Stewart verso il grande artista di Sam Cooke. Non era solo questa Twist in the Night Away ad essere stata incisa dal buon Rod Stewart, proprio lui. E siamo in Inghilterra, rimaniamo in zona con un artista che in qualche maniera ci sono delle similitudini e delle affinità. Stiamo parlando di Elton John. Avrei voluto forse mandare in onda il brano senza indicarvi l'artista, perché è quasi riconoscibile. È vero, sai che io l'ho sentito oggi, la canzone la conoscono tutti, la versione che ne dà lui è molto particolare, difficile riuscire a ritrovare la sua voce. È imposta proprio la voce per fare il verso da Killer, esatto. Da Louisiana Killer, lui, Jerry Lewis. Quindi adesso ci sposteremo verso questo artista che ha citato il buon Maurizio, lo andiamo ad ascoltare, il brano è Who Lotta Shaking Going On. That's all you gotta do. Come on now. Hey, baby, baby, baby. Siamo tornati, si sente? Beh, penso proprio di sì, con il sound di questa sera, Linea Rock qualche punto in più lo guadagna, caro Maurizio, grazie a te. Siamo entrati negli ultimi nostri ormai, 21 minuti ne abbiamo ancora, quindi il tempo di ascoltare tantissime altre canzoni, di ringraziare gli amici. Avete ancora 20 minuti per inviare e salutare Maurizio Faulisi al 339-266-3825 a livello di SMS. Abbiamo lasciato un Elton John irriconoscibile come tono di voce, che scimmiottava, come dicevi tu, il buon Jerry Lee Lewis in Who Lotta Checking Going On, per ritrovare una canzone che ha rifatto anche gruppi metal, questa Ring of Fire, quindi ti dico tutto. Esatto. il buon Elton John ci ha aperto le porte della Sun Records, ma prima di entrare a parlare di questa mitica casa discografica di Memphis, Tennessee, voglio anch'io fare la mia parte per salutare, non li leggiamo tutti quanti perché sono davvero tantissimi gli SMS, i messaggi arrivati a diretta @radiolombardia.it, al via SMS al 339-266-3825 e anche attraverso il sito di Rock Family, che instancabilmente è presente. È presente. sì, assolutamente. Il, non li leggiamo tutti perché sono davvero tantissimi, ma vi ringraziamo davvero di cuore perché siete davvero, davvero forti. Uno dei messaggi che ci è arrivato citava Fats Domino e chiedeva le condizioni di salute di Fats Domino. Non è che il Faulisi abbia un filo diretto con Casa Domino, ricordo anch'io che effettivamente dopo Katrina quasi ce l'eravamo persi, esatto. Tenerissimo, è apparso sullo schermo delle nostre televisioni che trasbordava da una barca su un molo, finalmente dopo alcuni giorni di scomparsa l'hanno trovato. Fats Domino è davvero anziano, credo sia classe 1922, se non vado errato è proprio vecchio, non credo proprio che si esibisca più, tra l'altro ha cominciato a suonare nel 1949, ha inciso e ha venduto un numero di dischi tra i più alti nella storia del rock, sembra poco credibile questa cosa, ma è davvero così. Uno che ne ha venduti milioni e milioni di copie e la sua famiglia, sua figlia ne sta ancora fruendo, è un signore che hai citato, cioè non hai citato, però hai citato la sua prima etichetta discografica, la Sun Records, e lui è Elvis Presley. Sì, quel Elton John che ha aperto le porte della Sun Records questa sera ci fa incontrare gli altri artisti, non tutti. Beh, abbiamo incontrato Johnny Cash che attraverso i Social Distortion da Orange County, California, ci proponevano appunto Ring of Fire, senza le tipiche trombe, ma comunque con effetto. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Elvis Presley, Roy Orbison, tutti personaggi sconosciuti prima che incontrassero Sam Phillips, quel grande talent scout, quel grande discografico che raggiunse la fama internazionale proprio grazie all'intuizione di mettere sotto contratto quelli giusti, praticamente quelli che hanno fatto le prime pagine della storia del rock and roll. E adesso ci ascoltiamo Tom Petty con i suoi Heartbreakers, quindi dalla California dei Social Distortion alla Florida di Tom Petty and the Heartbreakers. Sembra finale di Ulora c'è chi going on, questa è così, è così, è così, caro Maurizio. Baby, let's play house. Tom Petty and the Heartbreakers. Nel 1993, guardate come il filo conduttore ci riconduce e li lega davvero, li lega tutti quanti questi personaggi. Pensate che il buon Tom Petty ha fatto parte di un super gruppo, i Traveling Wilburys, che ricorderai benissimo. George Harrison, Roy Orbison, esatto, Roy Orbison, esatto. E Roy Orbison era della squadra della Sun Records. E questa canzone, Baby Let's Play House, era una canzone di un bluesman preso in considerazione da Elvis Presley come Arthur Big Boy Crudup, poi con Death All Right Mama, nelle incisioni delle prime incisioni effettuate appunto alla Sun Records, dove rimaniamo, perché dallo stesso repertorio ci ascoltiamo un brano intitolato Trying to Get You. Anche questo arriva dal repertorio di nero Elvis. Di Elvis, di quel periodo, venne inciso da un gruppo che si chiamava Eagles, ma che non c'entra nulla con Take It Easy, naturalmente. Esatto. Era il 1954. Ce l'ascoltiamo. Questa versione Hill, è particolare, quindi è particolare, un artista fuori, allora, da quel mondo. Sì, allora, Faith Hill è un'artista nashvilliana, country, decisamente country pop, squisita, sì, molto brava, ha raggiunto un livello di popolarità tale che persino gli italiani l'hanno chiamata, l'hanno fatto andare a Sanremo. Pensate un po'. Però ce l'ascoltiamo. Ce l'ascoltiamo in questo pezzo blues reso country dalla sua bella voce, dalla sua bella versione. Trying to get to you. I've been traveling over mountains, even through the valley too. Well, I've been traveling night and day, and running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true. Well, I've been traveling night and day, and running all the way, baby, trying to get to you. When I read your love letter, oh, my heart began to say, with a many miles between us, oh, that doesn't mean a thing. I just had to reach you, baby, I've been traveling night and day, and running all the way, baby, trying to get to you. If I had to do it over, well, I would travel night and day, and still run all the way, baby, trying to get to you. Well, there's nothing that could hold me, or to keep me away from you. When your loving letter told me that you really love me true, oh, Lord, but he knows I love. When my way was dark as night, it shined as bright as light. When I was trying to get to you. Questo è il titolo, Trying to Get to You, nella versione di Faith Hill, e siamo alle 21:18 primi, godiamoci gli ultimi 12 minuti, caro Maurizio. Sì, sì, e che voce quella di Faith Hill, grande, grande voce. Già che pure carina, Cosa te lo facevate però vabbè, qui potremmo, no, chiudiamo queste pagine delle donne, le good vibration che trasmette la sua voce ti portano a pensare vabbè, così. Allora sì, andiamo avanti con artisti country. Beh, in realtà stiamo parlando di l'artista che scrisse questo pezzo, un pezzo che esce dal repertorio di Hank Williams, un artista country che di fatto era un uomo che metteva in country lo spirito blues, perché le disgrazie umane, l'esperienza umana tragica di questo uomo gli hanno permesso di scrivere delle cose veramente splendide e toccanti. My Bucket's Got a Hole in It esce dal repertorio di Hank Williams, e Hank Williams scrisse anche una canzone, Moving On Over, che era un pezzo country ma con un ritmo decisamente rock and roll, anche quella finita nel repertorio di George Thorogood, che è stata citata come uno dei primi brani che si possono considerare rock and roll. La canzone che ci ascoltiamo adesso, My Buckets Got a Hole in It, è stata eseguita da due grandi del rock, una band che si è riunita anche pochi mesi fa, una band che vorrebbero ancora vedere in tour. Sto parlando dei Led Zeppelin, perché qui abbiamo Jimmy Page alla chitarra, Robert Plant alla voce. Jimmy Page che veniva da Yardbirds, quindi band di matrice già blueseggiante, e il primo album datato 1969 delle Zeppelin attinge a man bassa proprio dai classici, se non classici, dagli artisti famosi del blues, e quindi ci sta benissimo. My Buckets Got a Hole in It, Jimmy Page, Robert Plant. Quella di Robert Plant, grande chitarra, quella di Jimmy Page nell'interpretazione di questo motivo. Sì, di questo classico del repertorio di Hank Williams in acustico, con un basso, un contrabbasso decisamente sleppato, e ci stiamo avvicinando pericolosamente alla fine. Ma non lasciamo Jimmy Page, lo troviamo, ma è una sorta di cameo in un album che è già diventato storia, un album intitolato Last Man Standing, l'ultimo uomo rimasto in piedi della squadra della Sun Records. Stiamo parlando di Jerry Lee Lewis. Boy, this is rock and roll. Well, it's been a long time as a rock and roll. Been a long time as a digital. Let me get you back, let me get you back, let me get you back. Baby, where I come from. It's been a long time, baby, a long time. Book of love, can't get a chance of laughing on love. Carry it back, carry it back, carry it back. The little guy, been a long time, baby, been a long time. Long and long and long and long and long and long. Woo, baby. sempre brividi, quando si riascolta questo personaggio, questa canzone che è dei Led Zeppelin, poi appunto, però rivisitata in chiave molto rock and roll da Jerry Lee Lewis. Allora, visto che io domani sarò ancora qua, questi ultimi due minuti prima dell'ultimo pezzo sono tutti tuoi. Davvero, tutti tuoi. Io mi ritiro, saluto tutti, ci sentiamo domani sera, ti lascio a te Maurizio, grazie per essere stato qua questa sera. Grazie a te, grazie a tutti voi per aver deciso di passare un'ora e mezza insieme a Del Sano, buon vecchio rock and roll che non decide assolutamente di tramontare. Come avete sentito, questi grandi artisti attuali attingono a piene mani dal rock and roll degli anni 50, perché è stato un periodo molto vitale, pieno di contaminazioni, il periodo in cui ci sono state grandi fusioni tra la musica black e la musica country, e che è stato qualcosa di veramente esplosivo che non può essere relegato al passato. E allora chiudiamo con un artista, Carl Perkins, quello di Blue Suede Shoes, quello di tante altre canzoni, anche lui dalla squadra della Sun Records, dovevamo necessariamente ricordarlo, e lo ricordiamo attraverso una canzone che fu di Elvis, 1957, quella Jailhouse Rock, che era la colonna sonora dell'omonimo film, e cantata, pensate, da Michael Bolton, la grande voce di Michael Bolton. E con questo che Maurizio Faulisi vi abbraccia davvero davvero davvero, e con questo che Maurizio Faulisi annuncia a tutti quanti che è disposto a saltare le ferie se Marco Garavelli è disposto a avermi ancora qui nel prossimo futuro, sì, vabbè. Ma ci sentiamo, vado io in ferie, poi magari quando rientriamo, perché no, un'altra serata, okay, di questo calibro ci può stare. Grazie Maurizio, good rocking tonight, grazie a tutti voi.